Sveglia strada, il loro credo, costo e fasci la loro rabbia. Sopra i muri, il loro nome. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Sesta trasmissione passaggio a nord-ovest. I fatti accadono nella periferia nord-ovest di Firenze, narrati da chi nei quartieri ci vive e lavora, e quindi interviste dirette o interventi. Passaggio a nord-ovest è in streaming su Radio Wombat e lo potete ascoltare tutti i lunedì dalle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Ricordiamo il sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, dove oltre allo streaming potete scaricare i podcast. Oggi vi proponiamo la seconda parte dell'intervista riguardante le ragioni del no all'inceneritore e no all'aeroporto. Abbiamo ascoltato la prima parte intervista la settimana scorsa, in cui sostanzialmente venivano delineati e le motivazioni del presidio no inceneritore no aeroporto e le iniziative che si sono seguite negli ultimi anni. Questa appunto è la seconda parte dell'intervista. Qual è la pericolosità sia da un punto di vista sanitario, sia da un punto di vista dell'impatto urbanistico, sia da un punto di vista dell'impatto sociale dell'inceneritore? Sì, allora, sì, questo aspetto, ora riprendo un attimo questa prima parte della domanda, infatti l'aspetto decisivo è che ovviamente più forze militanti, più forze attive ci sono e più è possibile poi allargare il grado di diffusione della controinformazione, quindi il grado di consapevolezza e quindi poi anche il grado di partecipazione delle persone, degli abitanti, a quantomeno alle iniziative, ai momenti di iniziativa più importanti. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'inceneritore, la cosa è che naturalmente non riguarda soltanto ed esclusivamente questo inceneritore di Case Passerini che vogliono realizzare, riguarda proprio il sistema di incenerimento come sistema per trattare i rifiuti, che è il sistema assolutamente più irrazionale e più nocivo che ci sia, perché da un lato bruciare i rifiuti produce sostanze estremamente nocive per la salute, le produce sia sotto forma dei fumi e delle polveri che escono dai camini dell'inceneritore, e parliamo di sostanze come diossina, come metalli pesanti eccetera, ma produce sostanze estremamente nocive anche nella forma di ceneri e di braci che rimangono come residuo della combustione, e parliamo di circa un 25-30% di ceneri in rapporto alla quantità di rifiuti bruciati. Quindi per ogni tonnellata di rifiuti che si brucia, almeno un 25% rimane sotto forma di queste ceneri che hanno una altissima concentrazione di sostanze nocive di ogni tipo, e queste ceneri poi dovranno essere inevitabilmente messe in discariche speciali, con tutti i rischi che questo comporta. Quindi c'è un impatto sanitario, un impatto sulla salute di chi vive in un raggio anche molto largo, di molti chilometri all'intorno di un inceneritore, un impatto fortissimo e assolutamente negativo, che significa, come diciamo, si può già verificare purtroppo rispetto ai tanti inceneritori che sono in funzione, come per esempio, per stare in zona, quello di Montale, questo significa un aumento della mortalità, un aumento di malattie gravi, di tumori, eccetera. E quindi già, diciamo, questo sarebbe un aspetto che basterebbe a dire che l'incenerimento è un sistema per gestire la questione dei rifiuti assolutamente inaccettabile e da respingere. Ma c'è un altro aspetto che è altrettanto grave, e cioè il fatto che i rifiuti sono in realtà del materiale, delle materie prime che possono essere riutilizzate, che si parli di carta, di plastica, di metalli oppure di organico. Si tratta di materie che possono assolutamente essere riciclate e riutilizzate un certo numero di volte. Ora, in una situazione complessiva in cui a livello mondiale la pressione sulle risorse del pianeta è arrivata a dei limiti estremi, con le conseguenze di tipo ambientale, climatico, globale che conosciamo, il fatto di distruggere bruciandole delle materie che possono essere invece riutilizzate è chiaramente una scelta completamente irrazionale e in prospettiva a livello proprio di sistema globale è una scelta suicida. E quindi in questo senso diciamo che il sistema di trattamento dei rifiuti con l'incenerimento è davvero ingiustificabile se si guarda a quelli che sono gli interessi collettivi. Perché viene invece, si diceva degli interessi, no? Che poi invece ci sono dietro, e il fatto che invece continui ad essere scelto dalle amministrazioni locali e dai governi nazionali invece come il principale strumento per trattare i rifiuti, e perché dietro ci sono degli interessi e dei profitti di società che sono in qualche caso diciamo di varia natura. Ora magari se ne può mi parlavi di rifiuti zero, di possibilità di riciclare questi rifiuti e riutilizzarli. Ci sono degli esempi virtuosi delle cittadine, grandi o piccole, sia qui vicino in Italia o nel resto del mondo? Ecco, ci puoi dire qualcosa a proposito? Sì, ovviamente, questo è l'altro aspetto fondamentale, cioè che non solo il sistema dell'incenerimento è irrazionale, nocivo e sbagliato, ma lo è ancora di più se si pensa che esistono delle alternative per gestire i rifiuti, alternative valide che sono già state largamente messe in pratica e sperimentate un po' in tutto il mondo, ma anche in Italia e anche in Toscana. Per esempio, uno dei comuni che è stato tra i pionieri di questa, appunto, che chiamiamo la strategia rifiuti zero, è quello di Capannori in provincia di Lucca, ma c'è anche il comprensorio dell'Empolese che da questo punto di vista è molto più avanti. In pratica, diciamo, sintetizzando al massimo, la strategia rifiuti zero consiste prima di tutto nel fatto di organizzare una raccolta differenziata che permetta di portare, appunto, la differenziata tendenzialmente al 100%. Quindi questo significa che i comuni devono attrezzarsi per fare una raccolta differenziata porta a porta con determinati criteri, e di applicare anche una tariffazione puntuale che incentivi i singoli cittadini a rispettare questa raccolta differenziata. Quindi questo è il primo passo, e può essere applicato facilmente da qualunque comune, è soltanto una questione di scelta politica, di organizzazione, di darsi quel minimo tempo perché riesca ad andare a regime. Poi, una volta portata la raccolta differenziata, appunto, a queste percentuali, tendenzialmente anche del 100%, si tratta di questi materiali raccolti in modo differenziato riutilizzarli, riciclarli. Quindi avere diciamo una filiera produttiva che permetta di riusare le plastiche, il vetro, la carta, i materiali organici sotto forma di compost, eccetera eccetera. Poi, naturalmente, non è il 100% di quello che si riesce a raccogliere in modo differenziato che può essere riciclato e riutilizzato. L'esperienza dice che rimane un residuo di circa il 10% del totale che non si può che comunque naturalmente è già molto meno di quei residui e ceneri dell'incenerimento di cui parlavamo, ma comunque è stato anche sperimentato che questo 10% che non si può riusare e riciclare può essere trattato con determinati impianti, si parla di trattamento a freddo, di triturazione eccetera, che lo rendono inerte e che quindi permettono di metterlo in discarica senza avere delle conseguenze negative, senza avere il rischio di infiltrazione nei terreni di sostanze tossiche o lo sprigionamento di sostanze tossiche. Quindi, ripeto e concludo, questa strategia rifiuti zero non è semplicemente un progetto così astratto, è una cosa che è stata sperimentata e che è applicata in tantissimi comuni e in tantissime aree, sia in Italia sia nel mondo. Quindi l'inceneritore ha un costo ambientale in termini di salute, ha un costo in termini di razionalità sostanzialmente, nel senso che questi rifiuti potrebbero benissimo essere riciclati, ma c'ha un costo anche per la sua costruzione, ecco, di cui penso ne pagheremo noi, insomma, di tasca nostra i costi per la costruzione, o comunque una parte. Cosa ci dice a questo proposito? Quanto costerebbe questo inceneritore? Chi è che ci guadagnerebbe dal suo utilizzo? Qual è la società che è candidata a gestire i rifiuti, insomma in questo caso l'inceneritore di Casa Passerini? Sì, allora questo è l'aspetto economico, chiaramente è fondamentale anche per capire, cioè, il perché continua ad essere fatta questa scelta dell'incenerimento, no? Si diceva prima, cioè le amministrazioni continuano a decidere, per esempio appunto la regione toscana continua a fare piani dei rifiuti che prevedono la costruzione di nuovi inceneritori, il funzionamento o in qualche caso l'ampliamento dei vecchi, e così a livello nazionale per esempio il governo Renzi con lo sblocca Italia ha stabilito che si potevano e dovevano costruire oltre 10 nuovi inceneritori in tutta Italia. Allora, questo si spiega col fatto che dietro l'incenerimento dei rifiuti ci sono degli interessi economici, ci sono degli interessi legati ai profitti delle società che li gestiscono e che su questa gestione ci guadagnano in due modi diversi, ma che poi tutte e due ricadono sugli abitanti e sui cittadini. Allora, per quanto riguarda il discorso propriamente della costruzione, nel caso di questo inceneritore di Case Passerini, non avverrebbe con soldi pubblici o con finanziamenti pubblici. In questo caso la società che lo andrebbe a costruire e a gestire, che è la società Q-Termo, e che è composta dall'associazione di due imprese. Una è la Quadrifoglio, che appunto è la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nell'area fiorentina e che è una società a partecipazione 100% pubblica dei comuni dell'area metropolitana fiorentina. E l'altra sarebbe ERA, che invece è un'impresa dell'Emilia Romagna che gestisce diversi inceneritori appunto in Emilia-Romagna, e anche questa è una società a partecipazione in gran parte pubblica, e entrambi ovviamente, non a caso, una in Toscana e una in Emilia-Romagna, sono legate a doppio filo al Partito Democratico e alle sue amministrazioni sul territorio, legate probabilmente anche in forme clientelari. Allora, per quanto riguarda, si diceva, la costruzione, la società Q-Termo prenderebbe in prestito dei soldi dalle banche per realizzare l'inceneritore, quindi in questo caso non entrerebbe direttamente la spesa pubblica. Però dove invece entra il discorso dei costi che ricadono sui cittadini? In due aspetti. Uno, i comuni che del comprensorio del lato centro che conferirebbero i loro rifiuti alla società Q-Termo per bruciarli nell'inceneritore di Case Passerini pagherebbero una tariffa di un tot a tonnellata una tariffa che nell'accordo per la realizzazione dell'impianto è già stata definita, ora io non ricordo esattamente, però sappiamo che è una delle tariffe più alte a livello italiano. E più o meno il calcolo che si fa è che se l'inceneritore andasse a pieno regime, quindi arrivasse a bruciare circa 200.000 tonnellate l'anno, 180-190.000 tonnellate l'anno, l'entrata per la società Q-Termo solo da questa tariffa pagata dai comuni sarebbe di 30 milioni ogni anno. Quindi i comuni pagano la società Q-Termo per bruciare questi rifiuti, per avvelenarci, e ovviamente la pagano con i soldi che prendono dalla nostra tassa sui rifiuti o in generale dalle nostre tasse comunali e non. Quindi questo è un primo aspetto, poi su cui la Q-Termo guadagna. Poi ce n'è un secondo, perché bruciando i rifiuti loro producono una quota di energia elettrica. Ora, questa energia elettrica prodotta dalla combustione di rifiuti in Italia, grazie ad una legge, è assimilata all'energia prodotta da fonti rinnovabili, come potrebbe essere l'energia eolica, come potrebbe essere l'energia solare, e quindi l'energia prodotta da fonti rinnovabili, compreso i rifiuti, il produttore può venderla ai distributori, per esempio Enel, ad una tariffa a kilowattora superiore a quella standard. Ovviamente tutti poi i gestori e i distributori di energia elettrica si rifanno sui singoli utenti con delle bollette più care per recuperare questa tariffa maggiorata rispetto alle fonti rinnovabili. Quindi, e questi sono, diciamo, i due meccanismi attraverso i quali la società Q-Termo, in generale i gestori di impianti di incenerimento, guadagnano e scaricano poi i costi appunto sui cittadini e sugli abitanti. E quindi allora danno alla salute, danno alle risorse che vengono bruciate invece di essere riciclate, danno economico ma anche danno ambientale. L'inceneritore si trova in una piana, in una zona con un equilibrio ecologico delicato, ma che però ancora potrebbe essere qualcosa di importante, ecco, dal punto di vista della protezione naturalistica, oasi, passaggi di uccelli particolari e via dicendo. Sì, sì, sì. Ora aggiungo un'ultima cosa su questa questione dei soldi e dei costi, perché c'è un aspetto che è clamoroso e che è stato denunciato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi dai vari comitati, e cioè nella convenzione che i comuni del lato centro hanno fatto con la società Q-Termo in vista del funzionamento e della gestione di questo nuovo ipotetico inceneritore, è prevista una clausola che dice che se la società Q-Termo nel corso della gestione dell'impianto non dovesse ottenere i guadagni previsti, i comuni del lato tirerebbero fuori i soldi mancanti per coprire quella quota persa da Q-Termo. Quindi se per esempio per un anno il numero, la quantità di rifiuti che Q-Termo riesce a racimolare da bruciare fosse inferiore alla soglia massima di quelle circa 180-200.000 tonnellate annue che dicevamo, gli incassi mancanti li tirerebbero fuori direttamente i 77 comuni del lato centro. Un incentivo proprio a fare sempre più rifiuti sostanzialmente, ecco. E ritornando alla domanda precedente, insomma, la domanda le sono i danni ambientali, ecco. Sì, sì, sì, ecco, per ritornare alla domanda, allora la cosa che rispetto al territorio in cui sarebbe insediato questo inceneritore si può vedere da un lato considerando il fatto che è già un territorio, un'area che è pesantemente inquinata e dove, diciamo, gli abitanti ma anche chi ci lavora, perché ricordiamoci che è un'area in cui ci sono diverse migliaia di lavoratori che tutti i giorni ci passano come minimo 8 ore, quindi abitanti e lavoratori in tutta quell'area sono già gravati da tutta una serie di nocività, perché comunque pensiamo già dal traffico automobilistico, pensiamo che lì c'è stata e c'è ancora quella enorme discarica di Case Passerini, anche se ora è chiuso, c'è l'impianto di compostaggio di Quadrifoglio, ci sono tutta una serie anche di industrie e di produzioni inevitabilmente nocive, quindi si andrebbe, diciamo, l'impatto ambientale sul territorio si andrebbe ad aggiungere a una situazione che già invece richiederebbe di essere risanata e di essere modificata. Ma nonostante la presenza di queste nocività, in realtà in quel territorio, proprio nei dintorni di quel terreno su cui dovrebbe sorgere l'inceneritore, ci sono una serie di oasi naturali estremamente importanti. C'è innanzitutto la più grande, l'oasi di Focognano, che si trova nel comune di Campi Bisenzio. A poca distanza c'è l'oasi della Querciola, che invece si trova nel comune di Sesto Fiorentino. Poi c'è l'oasi di Val di Rose, che rimane anche questa nel comune di Sesto Fiorentino, nell'area, a ridosso dell'area dove c'è il polo universitario, il polo scientifico universitario. E sono delle oasi naturali gestite dal WWF, che hanno un valore naturalistico e faunistico enorme, perché sono aree di ripopolamento e sono aree di sosta di varie specie di uccelli migratori. È possibile, per esempio, in alcuni periodi dell'anno vedere anche per esempio i fenicotteri rosa, quelli che magari siamo abituati a vedere soltanto nei documentari alla televisione, che ci sembrano bellissimi. Ecco, in quell'area è possibile vederli dal vivo. E quanto sono distanti tra di loro l'inceneritore, anzi l'ubicazione del previsto inceneritore di Case Passerini e la pista aeroportuale vorrebbero costruire? Allora, la distanza è minima, in linea d'aria parliamo forse neanche di un chilometro. Praticamente sono due terreni che si trovano uno a fianco all'altro, separati soltanto, quasi soltanto, dall'autostrada. E quindi, insomma, una commistione, se poi si aggiunge anche il progetto dell'ampliamento della terza corsia autostradale, veramente deleterio. Finisce così la seconda parte dell'intervista sulle ragioni, sulla contrarietà alla costruzione dell'inceneritore a Case Passerini e all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Ricordiamo passaggio a nord-ovest tutti i lunedì dalle 13.30 e in replica da martedì al venerdì sempre dalle 13.30 su Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Vediamo anche i social di Radio Wombat, cioè Twitter Radio Wombat Firenze, Facebook Radio Wombat Firenze, eppure l'indirizzo di posta elettronica postawombat@insiberia.net. Inoltre potete, per contatti, proposte, richieste rispetto alle tematiche trattate da Passaggio al Nord-Ovest, scrivere non solo a postawombat@insiberia.net, ma anche a sscastello@inventati.org. Ciao, alla prossima!